anche perché oggi in piazza ci sarà anche il coordinamento cittadino di lotta per la casa. Ma adesso andiamo a sentire uno studente che arriva con dei pullman, credo che siano già arrivati qui a Roma da Pisa. Abbiamo in collegamento, ci sei? Pronto? Sì, ci sono, salve a tutti. Raccontaci un po' come arrivate, come andrete in piazza oggi. No, siamo quasi vicino a Roma, siamo pronti per arrivare a raggiungere finalmente il corteo e per scendere in piazza. Siamo da Pisa, sono stati fatti 12 pullman, quindi diciamo che ci saranno circa 600 pisani pronti a manifestare, a dimostrare comunque che l'Ateneo Pisano si è dimostrato protagonista nel corso di questo movimento e vuole rimanere tale anche a Roma. Bene, bene. Allora, i contenuti da Pisa arrivano anche a Roma. Raccontaci un po' che cosa volete portare, quali sono le parole d'ordine? Ma, più che altro, questo movimento che è nato così un pochino alla rinfusa, che è giusto che si riveda in quella che è la dinamica di Tutti Uniti contro la crisi, è già nelle piccole, cioè già da tempo sta dimostrando città per città dei contenuti nuovi di protesta che vogliono, diciamo, non più solamente creare una partecipazione inutile, essere criminalizzati, ma soprattutto, cioè, farsi sentire. Quindi il messaggio è proprio questo, cercare di essere ascoltati, perché probabilmente comunque andrà la votazione, noi ci sentiremo comunque vincitori perché saremo lì a portare, diciamo, questo messaggio. Perché davvero non ci va questo governo incostituzionale, davvero non ci va che sono disposti a vendersi l'anima al miglior offerente, e questo, cioè, è un dato di fatto che uscirà per forza in qualunque votazione ci sarà, sia sfiducia che fiducia, noi saremo lì a dimostrare questo. Sì, infatti, proprio questo volevamo chiederti, visto che lo stiamo chiedendo un po' a tutte le varie realtà che oggi scendono in piazza, non fa differenza se questo governo cada o meno. Va bene, allora, se non hai nient'altro da dirci, intanto, visto che ancora non siete arrivati a Roma, vi lasciamo nel vostro viaggio, ci risentiremo tra... Grazie, grazie. No, speriamo di arrivare il prima possibile, perché ci teniamo davvero tanto ad essere presenti a dare il nostro no a questo governo. Certo. Siamo anche una spalla. Anche perché siete tantissimi. Ciao, intanto ti ringraziamo, ci sentiremo magari più tardi nel proseguio della manifestazione. Certo, va bene. Grazie, ciao. Ciao.